Dialog. La realtà condivisa. Di Gianluca Nicoletti. Questa mattina il tema è scabroso, perlomeno nella sua premessa. Mi rivolgo agli ascoltatori maschi. Quante volte siete stati messi in mutande da una donna? Adesso subito tutti, ah figurati, ah sempre, capita sempre, spesso e volentieri, ogni volta che schiocco le dita. Ma figuriamoci, sto parlando naturalmente dell'essere messi in mutande in senso metaforico, essere messi con le spalle al muro, essere resi totalmente impediti ad ogni reazione. Perché? Perché ci hanno scoperto, ci hanno smascherato, hanno distrutto soltanto in un attimo, con un'occhiata, con un cenno, con una frase, con un gesto, con una omissione o con una richiesta avanzata, tutto il nostro castello di nefandezze, di vanaglorie, di illusioni, tutto quello che noi, su cui noi avevamo costruito il nostro essere uomini. Dico questo perché oggi mi piacerebbe parlare di questo aspetto, di questa fantastica capacità delle donne, se vogliono, quando vogliono, come vogliono, se si ricordano ogni tanto che loro ne sono perfettamente capaci, riescono a mettere in mutande gli uomini, a ridurre l'uomo anche più spavaldo, anche più spocchioso, anche più sicuro di sé, in un bambino tremante. Qual è la tecca? Non lo so. Molte donne lo sanno, molte ancora se lo ricordano, molte lo hanno ereditato dalle loro nonne, dalle nonne delle loro nonne, per un'infinità di generazioni. Altre se lo sono completamente dimenticato e vivono nella totale inconsistenza, inconsapevolezza, succube piene di sensi di colpa, piene di sensazioni di inadeguatezza di fronte a questa sorta di simulacri della mascolinità che siamo noi. Come si fa a mettere un uomo in mutande? E come ci si sente quando una donna ti mette in mutande? E quali sono gli episodi della vostra vita in cui siete sentiti veramente messi in mutande? In maniera inaspettata, da donne apparentemente inoffensive, da donne remissive, da donne miti, da donne docili, da donne con gli occhi bassi, che solo per un istante alzano gli occhi e voi scomparite. Vi sentite semplicemente come un cerino usato. 800 24 00 24. E allora tu, che finanzi sempre gli altri e a me no? Eppure quando noi ci siamo sposati davanti a Padre Agostino, abbiamo deciso di dividere tutto. Io ti ho dato il mio entusiasmo, la mia speranza, la mia intelligenza, ma tu che cosa mi hai dato? 70 milioni in 5 anni? Un assegnino di 20 milioni al credimenti tuo. Vuoi altri soldi? No, neanche un centesimo. Posso commettere una follia? Ne hai già commesse tante, una più, una meno. Guarda che questa volta ne commetto una grossa, io apro i gas. Tanto a te cosa costa? La bolletta la pago io? Andiamo. Elvira bella, questa è brutta, perché tua madre. Giuseppe Sansonna, ciao, buongiorno. Buongiorno. Oggi, come al solito, noi troviamo dei puntelli storici nella commedia italiana, il cinema italiano, che è stato un grande rivelatore di gallerie delle nostre debolezze, anche perché difficoltà oggi ne troviamo nella contemporaneità ad avere esempi così calzanti. Oggi le donne sono problematiche, sono svampite, sono circondate da maschi o perlomeno da metafore della mascolinità e vivono indaffarate. Qual è l'antitetico esempio di donna che non metterebbe mai in mutande un uomo del cinema contemporaneo? Hai facoltà di cercare nelle ultime produzioni dei più illuminati dei nostri registi, dei nostri ispiratori e autori di testi. Ma io non penso che nessuno arrivi alla perfidia modernissima e geniale di Franca Valeri, di questo film, che è un film del 59, sembra i primi vagiti del boom, Il Vedovo, in cui Dino Risi contrappone il patetico sentimentalismo piagnucolante e vittimistico di Sordi, che è un imprenditore che costruisce ascensori a questa sorta di utopia ma in perenne bancarotta, mentre la moglie è meneghina, industriale vincente, addirittura gli presta tramite un prestanome soldi a tassi usurari al marito, quindi lo vilipende quotidianamente e quindi lo mette in condizione di Sordi, l'unico riscatto è quello di cercare di ucciderla e poi sappiamo come finirà. Insomma, paradossalmente finirà. Sì, lui cerca di uccidere, ma in realtà nell'ascensore in cui sarebbe dovuto precipitare la moglie ci finisce lui. È il grande Livio Lorenzon che lo spinge giù per la tromba delle scale. Quindi è la modernità, della crudeltà precisa e gelida di Franca Valeri, che mette in evidenza quale sia, mette alle corde il maschile, appunto, da vilipendere. Sì, lui muore, ma sta nel braccio della morte per un periodo lunghissimo. Il miglio verde di questo uomo, che poi finirà vittima di una donna che lui non riesce a contenere, che lui non riesce a gestire. Molte volte l'illusione è di poter possedere una donna, per il fatto che poi in fondo l'atto fisico del possesso dia all'uomo una certa fallace, momentanea, posticcia superiorità, dall'illusione che poi la donna sia per sempre tua. No, la donna nel momento giusto ti dimostra che così non è. 800240024, questa mattina non posso andare avanti se non posso essere, se non riesco a essere corroborato dalle vostre testimonianze. Basta con la falsa modestia, siamo un impero e dobbiamo pensare imperialmente. A Roma, a Roma. E senza palla al piede. Teresa, tu hai avuto il tuo momento di felicità. Vivi di questo ricordo. Tu hai una casa e non tutti possono dire altrettanto. Comunque, resteremo sempre buoni amici. Questo sì. E adesso sorridimi. Ma vaffanculo. Oh, oh, ma tu sei ammattita? Vuoi andare sotto processo? Sto indeciso. Da quanti mesi sei partito? Giuseppe Sanzonda, qui siamo in un contesto meno elitario, meno di alta società, ma come vedi il rapporto rimane lo stesso. Sì, questa è Teresa la ladra del 73 di Carlo Di Palma. Qui c'è Monica Vitti, che inedita presenza femminile nel cinema italiano rispetto a Franca Valeri, che non è certo avvenente, che quindi da sordi viene sposata per denaro. Qui la Vitti, anche oltre che avere una sottigliezza ironica, è anche una bellissima donna. Quindi davanti al maschile stentorio, al fascista roboante che le presenta, appunto, dice: devi essermi grata, devi essermi concesso a te, donna, insomma, con una frase, una volgarità meravigliosa e sintetica, se ne libera, schiaffeggiandolo anche, quindi deridendo la sua marmorea compostezza. Ecco. Qual è il punto di vantaggio che una donna ha sempre di fronte a un uomo? Qual è la maniera sottile, a volte crudele, sicuramente spietata e implacabile per metterlo in mutande? Ne voglio parlare questa mattina per dare un senso di sollievo e di recupero della propria certezza, della propria dimensione di forza alle tante donne che sono tartassate giustamente in questi giorni da tutta la trattatistica su cui noi stessi abbiamo volentieri dato il nostro contributo, di donne massacrate, picchiate, vilipese, subordinate agli uomini. No, le donne hanno una grande facoltà, solo che ogni tanto se lo dimenticano, ogni tanto non se lo ricordano più, o non hanno più madri capaci di trasmettere a loro questo segreto di come mettere gli uomini in mutande. Roberto, buongiorno. Buongiorno, dottor Giannino. Sì, Giannino, cominciamo male, guardi, se lei vuole che dia mano alla motosega, non perché mi senta, mi sentirei onorato, ma è un altro contesto, non parliamo di economia, ma parliamo, ahimè, di vilipendio maschile, di mortificazione. Sì, no, guardi, sono emozionato, guardi, non pensavo neanche io di essere richiamato così a breve. Se lei comincia così è la tipica vittima dello smutandamento femminile. Infatti, lo sono. Cosa le è successo? Allora, praticamente io nel 2004-2005 mi sono separato. E quindi ho chiesto consulenza ad un legale e, avendo due figli, mi sono proprio sentito defraudato non solo della parte economica, ma anche del ruolo genitoriale. E quindi è subentrato tutto un meccanismo nel quale mi sono accorto che, non avendo mai avuto a che fare con la giustizia, E mi sono trovato denunciato, esposti continui, senza nessuna arma di difesa nei miei confronti. Quindi hai trovato una situazione abbastanza tipica, che abbiamo parlato molto, in casi di separazione molte volte esiste un lieve squilibrio nel considerare quelle che sono le ragioni della donna e quelle che sono le ragioni dell'uomo. Questo è un argomento anche sin troppo trattato. Ci sono associazioni di uomini separati, di padri defraudati e via dicendo. Forse è l'esempio più palese, più legato a vicende contemporanee in cui la donna dimostra veramente la sua capacità, ma in questo caso lo fa con il supporto legale. C'è un meccanismo che in fondo la mette in una condizione di privilegio in quanto madre, in quanto primo pensiero nell'affidamento dei figli. Ma se lei in questa vicenda potessi individuare dei fattori personali individuali in cui hai notato questa capacità profonda di mutazione improvvisa, quella che era la tenera, appassionata, dolce, remissiva compagna di tutte le nostre fantasie, improvvisamente diventa il nostro aguzzino. Come può accadere questo? Lei in che maniera se ne è accorto? Ma secondo me è stato un lento stillicidio, perché praticamente questo distacco avviene con piccoli silenzi, parole non dette, cose nascoste. E qual è la nostra responsabilità in questo? Ma forse di dare troppo alcune situazioni per scontate, e quindi alla fine lasciare nel quotidiano. Vivere di rendita, pensare che le rendite affettive ci porteranno tutta la vita ad essere sicuri, fieri, intangibili e intoccabili. Invece le donne ogni giorno vanno a controllare quello che è il titolo in borsa dell'affettività che noi attribuiamo loro, e naturalmente quando vedono una situazione di crisi intervengono subito. Però secondo me dipende anche da un fattore di comunicazione, perché comunque secondo me sia gli uomini che le donne a volte sono incapaci di comunicare quelli che sono le loro vere sensazioni, sentimenti. Ma secondo lei è strategico e utile farlo sempre con sincerità? Io direi di no. Ma magari forse delle volte è meglio evitare dei piccoli dettagli, delle piccole cose, però comunque sicuramente in un rapporto di coppia, in un rapporto familiare, alcune cose è meglio che emergano. Perché non è possibile che comunque... Ma lei adesso per cosa si mangia i gomiti di essere stato messo in mutande? Dove ha sbagliato? Qual è il punto in cui poteva intervenire e riprendere la situazione in mano? Io devo dire che comunque bisogna vedere sempre il rovescio della medaglia, perché comunque una cosa buona comunque ne nasconde una cattiva e viceversa. Vabbè, la cosa buona è che si è svegliato, poi quella cattiva. La cosa buona è che comunque ho ripreso in mano il mio ruolo di padre e praticamente mi sono cresciuto le mie figlie, ho lottato per loro nei tribunali e quindi ho ottenuto proprio quello che volevo, un rapporto bellissimo con le mie figlie. E questa cosa secondo me è impagabile, nonostante tutto quello che abbia passato poi le vicende, diciamo, giudiziarie. Ma adesso lei ha imparato qualcosa da questa lezione? Ha capito che essere fantastici, meravigliosi, degni di ogni rispetto, di ogni venerazione, ma in realtà possibili nella loro natura mutevole ad ogni improvviso cambiamento? Questo sono le donne. Però non tutte le donne, secondo me, sono così. Sono quelle che grazie a Dio se lo dimenticano e quindi non ci mettono con le spalle al muro. Sì, però io ad esempio sto insegnando ad essere donna alle mie figlie, cioè nel senso a comunicare. A lei glielo deve insegnare a essere donna? E come fa? Com'è? E come fa lei che è uomo a insegnare alle figlie a essere donne? Perché comunque so come sono le donne, come dovrebbero essere le donne. Ma questa è una, guardi, io non voglio entrare nelle sfere, è la più grande illusione che coltiviamo noi uomini dall'età della fanciullezza fino al passo ultimo verso il sepolcro. Non conosceremo mai le donne, se Dio vuole, così almeno avremo ancora interesse a conoscerle. Però la figura del padre, secondo me, quello che io ho analizzato in questi anni, la figura del padre è una figura determinante nell'educazione, specialmente di una bambina. Sì, ma il padre sì, però fino a un certo punto, quando uno arriva all'età maggiore, il padre giustamente lo deve dimenticare, come dicono i saggi buddisti, uccidi tuo padre, uccidi tua madre, se lo incontri, ma se anche incontri Buddha, uccidi anche lui. Tu puoi giudicarmi come vuoi, ma qua in paese ho una buona reputazione, la gente mi stima. Pina, ma che adesso vogliamo litigare dopo che siamo andati così d'accordo per tutta la giornata? Sì, proprio d'accordo. Come se non mi fossi accorta di tutte le cose che non ti sono andate bene di me e della mia casa. Quando? Dobbiamo dirci tutto, no? E allora su, coraggio. Comincio io e ti dico in faccia tutto quello che penso di te. Sei egoista, meschino, razzista, presuntuoso come tutti i romani, ecco cosa sei. Non sei democratico, non sei fine. Frughi nelle stanze. Maltratti gli animali, disprezzi il prossimo. Ecco perché uno come te non lo vorrei nella mia casa, neppure dipinto sul muro, chiaro? 800240024, quando siete stati messi con le spalle al muro da una donna? Quando una donna vi ha inchiodato alla parete, quando una donna con soltanto uno sguardo vi ha fatto venire voglia di dissolvervi in un istante, in una nuvola di fumo e scomparire. Questa è la fantastica Sandra Milo, in uno dei film in cui lei mi è piaciuta di più, in cui fa la culandrona. Questa fantastica donna liberata viveva sola in un paese dell'Emilia, tranquilla, con la sua attività bella, ma culandrona in quanto gli hanno gonfiato il culo in maniera esagerata. La Milo deve essere ancora di più macchiettistica rispetto già a quello che era, bella con questo suo grande culone accogliente. E lei cerca un uomo, alla fine trova questo povero disgraziato penoso che gli si piazza in casa e comincia a valutarla per i suoi possessi, per la casa, per quello che ha, per come cucina. La usa anche, la usa. Ha con lei anche un incontro fisico, sessuale, ma sempre schifosamente subordinato al suo interesse. E lei, che sembra un'ancella remissiva, geisha, tutta, alla fine si rivolta e gli dice lo schifo che è, sei proprio un romano, un pappone. Sì. Lui è François Perrier, strepitoso in questo film che è del 63, diretto da Antonio Pietrangeli, uno dei più grandi geni del cinema italiano, soprattutto un grande autore di ritratti di donne meravigliosi. Qui la Milo, appunto, come dicevi tu, col sedere ingrossato, con questi ricciolini da barboncino, questa cipria che la invecchia un po', è un po' la bella del paese, un po' trattata, motteggiata volgarmente dai paesani, che appunto vive questa corrispondenza. Sì, lei aveva una sua attività, quindi era dignitosamente benestante del paese, quindi si prendeva le soddisfazioni, veniva ogni tanto, che era Gastone Moschini, questo camionista, che andava ogni tanto a dargli una trombata affettuosa, ma era un rapporto bello sì, autentico. Non volgare. Invece volgarissimo è François Perrier, che viscido, che fa il commesso di libreria e che arriva con queste penne omaggio che ha preso dalla libreria e gliele regala e gli ricorda che sono anche omaggio, quindi non ha speso nulla per fare il regalo, che comincia ad attaccare il cappello, come si dice gergalmente, ovvero a sentirsi padrone in questa casa in cui è appena arrivato, e a spostare i mobili spaccando una lampada e fingendo di non averlo fatto. Cioè svela tutta una serie di meschinità maschili, cioè di senso del possesso e allo stesso tempo di vigliaccheria, che lei alla fine inchioda in questa serata. E pensa che lei amorosamente si era messa in gioco totale, aveva risposto a un annuncio, cioè un incontro al buio, l'aveva accolto a casa sua, gli aveva dato da mangiare, da bere, accolto nel suo letto, l'aveva coccolato, gli si era carnalmente concessa, quindi in una provincia, aveva addirittura rimesso la porta al camionista, venne a bussare la notte per il consueto incontro e cambio dell'olio, vede che c'è un uomo, le vuole talmente bene, dice sono contento, finalmente hai trovato un uomo per te, c'è una complicità fra i due uomini, dice te la lascio, una grande donna, se ne va, e improvvisamente lei si accorge lo schifo che ha l'uomo davanti, e qui è la grandezza della donna, che può essere remissiva, può essere docile, può dimostrare all'uomo che vive soltanto per lui, ma l'attimo in cui sente tradito il ruolo maschile che vuole avere nei suoi confronti, lo straccia, lo uccide, ma lui sarà talmente schifoso nemmeno se ne accorgerà. Sì, ma la sottigliezza di Pietrangeli è raccontare dei personaggi che non sono delle macchiette, che non sono dei mostri elisiani, pur interessanti, però molto scolpiti, molto caratterizzati. Qui i personaggi cambiano, appunto la stessa Milo evolve nel film, acquisisce sagacia, intelligenza. Dico, uno dei film in cui lei mi piace di più, che abbandona quella bamboletta onirica del vecchio maialone che è sempre stata nei suoi film. Anna, buongiorno. Buongiorno a lei. Oh, finalmente una donna. Ci racconti come si fa, quando l'ha fatto, come l'ha fatto, e mi racconti i resti della sua vittima. Allora, guardi, io ho 35 anni di matrimonio, 3 figli, poi sempre sottomessa, mai preso una decisione in vita mia. Però con piacere l'avrà fatto, non subendo, no? Sì, e poi un giorno gli ho detto, lui era tornato da un viaggio, e gli ho detto, senti, non disfare la valigia, riprenditi tutte le tue cose, impacchetta tutto, non ti voglio più vedere. Bello, l'ha messo in mutande praticamente. Sì, ho parlato prima con i miei figli, perché comunque c'è sempre questa remora, no? Ma il motivo qual era? Il motivo qual era? I motivi sono stati tantissimi nel corso della mia vita. Uno è che non ci ha mai dato la possibilità di vivere in tranquillità, sempre, guardi, a che fare luce staccata, gas staccato, ufficiali giudiziari, di tutto e di più. Cioè era anche un cialtrone dal punto di vista del menage familiare. Sì, tant'è che davanti al giudice adesso, perché stiamo facendo una separazione neanche consensuale ma giudiziale, perché lui non me la vuole concedere, il giudice gli ha detto che mi dovrebbe dare 350 euro al mese per il figlio che comunque studia. Vabbè, sono entrate le vicende, che sono vicende da avvocati, non ci interessa. Mi interessa il momento cruciale della messa al muro. Come è avvenuto? Me lo racconti? Perché improvvisamente uno torna a casa, pensa a trovare la solita schiava in ciabatte, invece trova Giovanna d'Arco con la spada in mano. Sì, è tornato che stava anche male, guardi, per cui c'era anche la diarrea, cose orrende, no, immagino. No, guardi, io dico che cosa aveva. Aveva un'orchite. Peggio ancora, pensa, c'ha le palle gonfie. Beh, poi e dunque ha dormito 2 notti sul divano, perché tornava dalla Romania, era andato a fare un viaggetto di piacere. E indovini, poi per questo è venuta l'orchite, si era sforzato. Certo, e di conseguenza dopo tanto io ho aperto la valigia. Quindi lei ha trovato anche un bersaglio facile per colpirlo. Sì. E niente, io ho aperto la valigia per vedere, ho trovato preservativi, queste cose qui. Vabbè, quelli magari c'erano... Meno male, spero, per lui. E a un certo punto, appunto, ho preso coraggio a due mani e gli ho detto, senti, la vedi quella valigia? Beh, anche scemo, perché li riporta a casa? Poteva buttarli via una volta tornato. Non avevamo comunque un bel rapporto, perché era un rapporto deteriorato e a me non me ne poteva fregare niente di meno di quello che lui potesse fare. Solo che quando partiva, lui tornava, non mi dava neanche una lira, per cui io gli davo da mangiare, gli pagavo, pago l'affitto, gli davo da mangiare, tutte queste, gli facevo pure la donna di servizio a un certo punto, perché lavavo, stiravo e compagnia bella. E quel giorno gli ho detto, adesso la vedi quella valigia, non la disfare, come guarisci, come stai un po' meglio, prendi, la riprendi e te la porti via e te ne vai, non ti voglio più vedere. E lui, trascinandosi le sue palle gonfie, se n'è andato via. E lui mi ha detto, sì, non ti preoccupare, vabbè. Che fine, è finito andato sotto un ponte, spero. No, lui mi ha detto poi dopo, perché poi ho avuto degli episodi di stalking, per cui l'ho dovuto anche denunciare, mi ha rinfacciato il fatto che in quel periodo è andato a dormire in un garage, che a me non me ne poteva fregare niente di meno. Pazienza, perché a un certo punto, quando partiva con 1000 euro. Comunque vede com'è implacabile, giusta e sacrosanta la vendetta della donna. Melog. La realtà condivisa. Dottor Ercoli! Va bene così in tenuta da lavoro? Siamo pronte. Da questo momento le camere da letto sono aperte al pubblico. Coraggio, signori! Nessuna paura della polizia. Abbiamo un ottimo protettore. Non è vero, dottor Ercoli? È contento adesso? È così che dobbiamo lavorare, no? Non è questo che voleva? Lei, signore! Lei vuol salire? Se non le piaccio io, ci sono le mie compagne. Avanti, mica le dovete sposare. E voi ragazze, al lavoro per arricchire il dottor Ercoli. E ricordatevi che non siamo serve, siamo puttane. Perché tanto noi qui non possiamo far altro, niente altro che questo. Ma che fa, dottore? Se ne va così, non resta a controllare gli incassi? 80024 0024, questo è Ado e le compagne, è simbolicamente un film che rappresenta quanto questa capacità, questo ruggito, questo graffio, questa voglia di ritirarsi in piedi e di mettere l'uomo nella sua schifosità con le spalle al muro, viene anche da delle donne che hanno fatto le prostitute. Dopo la legge Merlin, un gruppo di ragazze, dopo aver lavorato in una casa chiusa, hanno deciso di aprire un ristorante. Per loro è un'attività pulita, normale, tranquilla, alla luce del sole, senza persiane sbarrate. Ma l'uomo vuol sempre considerarle puttane e vuol sempre sfruttare il loro lavoro. Sì, in questo caso è Claudio Gora, che è un ricco possidente, che gli affitta questo casale, ma vuole anche vuole che tornino a fare le prostitute per sfruttarne i proventi. E Simon Signoret, scendendo da questa scalinata davanti a tutti i clienti, lo inchioda alla sua meschinità, lo mette alle corde con la voce doppiata magnificamente da Lilla Brignone, con questa voce pastosa, appunto lo inchioda, ne mostra tutta la viltà, e tra l'altro l'ipocrisia, la non voglia di apparire come pappone reale, ma come figura che rimane nell'ombra, insomma, che non si sporca le mani. Vedi, però è la rappresentazione fedele di quello che abbiamo messo come promessa, come inizio. L'uomo che svolge un ruolo di totale e perfida potere assoluto sulle donne, il pappone. Non c'è un uomo più schifosamente despota di una donna, colui che la fa prostituire e ne prende anche il provento di questo lavoro. In questo caso è bastato pochissimo. Di fronte alla pubblica esecrazione, allo sputtanamento generale, nel suvicio tentativo di imporre questo tipo di obbligo, è terrificante come improvvisamente cambia il ruolo, cambia il rapporto. La puttana ormai non più tale, quindi non più in quel ruolo che lei aveva accettato, non ammette più che esistano papponi per lei. Giovanna, buongiorno. Sì, buongiorno, dottor Nicoletti. Adesso quello che volevo dire rispecchia un po' quello che lei ha appena detto su Aldo e le sue compagne, però la faccenda che l'uomo, di ridurre l'uomo in mutande, non è difficile al giorno d'oggi. Lei l'ha fatto, si è liberata di qualche pappone? No, io me ne sono accorta subito. Mi sono accorta subito, il tipo, mollato, ma ho visto... Ce lo racconti. Ce lo racconti. Niente, mio marito, perché io parlo proprio di mio marito, non è che parlo di uno. I mariti sono i primi lobby della caccia, fucili costosi, io a un certo punto mi sono pure stufata, anche perché poi non è che fossi molto ricca, però insomma qualche sacrificio, pur di fargli il regalo. Lei regalava doppiette a Gogò, a suo marito? No, Gogò no, però so, c'è il fucile di Talvarco, l'obbligo della caccia, così. Poi ho visto anche le mie amiche che, caspita, ah beh, ma sai, gli piace il golf, bisogna scrivere al circolo del golf. Ma dai, aspetta a noi. Quindi dopo il fucile anche le mazze da golf, devo regalargli. E poi non ho capito, perché poi questi mariti, uomini, amanti, fidanzati, in pubblico poi si lasciano trattare a pesci in faccia da queste donne. E no, ma no, manca un passaggio, scusi. Io sono ancora il marito appassionato di caccia e lei gli regala le doppiette con grandi sacrifici. Poi no, sì, con grande sacrificio, ma ho mollato anche subito. Cioè, ho capito com'era l'andazzo. Ma com'era l'andazzo? No, per me non voleva, mi trattava, cioè non è che mi trattasse come una condanna, però voglio dire, sei gentile com'è così, sei mai sposato per amore, anche perché non era una brutta ragazza così, però sei capovolta tutta la faccenda, cioè tu accetti che, non so, ti rimproveri per una futilità, che invece potresti dire piantala che a noi torto così, perché sai che a un certo punto tiro fuori il coso degli assegni. Ah, e lei questo... come Franca Valeria e Alberto Sordi, si faccia trattare? No, un momento, perché Franca Valeri ha detto una frase di più. Ha detto: mi sono sempre chiesto com'era l'avanti di mio marito. Io ho capito subito l'andazzo, gli ho messo subito un investigatore spalle, in due settimane ho visto subito chi era. E chi era? Una ragazza, una tipa. Ah, la tradiva, questo è bello, dica. Certo, se non dice questa, non pensavo che il fringuello fosse il suo antagonista d'amore. In realtà no, c'era una donna. Certo che c'era la donna, ma però... Non lo so, se non me lo dice, non posso immaginare. Sì, c'era la donna, ma proprio però stanno in casa fin quando la moglie o la compagna così non si stufa di firmare assegni per lui, perché io per esempio conosco amiche che pur di tenersi in casa il marito o l'amico per non far vedere che sono sole, firmano assegni, chiedono prestiti in banca, di qua... Quindi di lei manteneva un farfallone amoroso che in realtà la tradiva, nonostante sì, ma che... Ma tutti questi uomini, non è che non sono senza soldi, hanno anche loro la loro professione... Sì, ma lei come ha fatto a dirgli basta, da oggi non ti do più soldi, anzi te ne vai a quel paese? Come gliel'ha detto? No, tu fai le valigie e te ne vai. Ha sempre le valigie, ecco, la valigia la cosa, perché è il passaggio fondamentale. Eh beh, certo. E lui ha preso cartucciera e se n'è andato. Certo. Col carniere, con tutta la giacca. Sì, ma non se l'è cavata così, perché io poi gli ho fatto causa civile, logicamente. Ah, quindi l'ha messo in mutande nel vero senso della parola? Beh, non è che fosse un povero disgraziato. Era lui che gli piaceva essere viziato e dire no... Cioè, per esempio, eravamo a cena, no? Io dicevo, no, questo non mi va, oppure non so, che brutta quella cosa. E lui subito mi offendeva, mi trattava male. Vabbè, c'era una tensione, chiaro, quando ormai il rapporto è in crisi... Sì, ma un po' di educazione. È l'educazione che in amore, l'educazione è qualcosa di accessorio e non indispensabile, anzi fastidioso nella fase del corteggiamento e la passione. Non si può essere educati quando si corteggia e quando si è appassionati, ma tanto più è impossibile essere educati quando si odia, che è nella fase finale e esplosiva, che ha una sua valenza estetica, quindi non chieda l'educazione. Lei sì, ma se pensa, dottor Nicoletti, quante donne sopportano la non educazione pur di non svuotarsi la casa dell'uomo? Vabbè, peggio per loro, quando capiranno che le case svuotate dagli uomini sono case molto accoglienti, anche per farne entrare altri, avranno capito molto. Appunto, questo volevo dire. I signori hanno chiesto il conto? No, veramente noi siamo stati invitati. Ah, ma gli inviti qui li faccio soltanto io. Allora siamo stati suoi ospiti, a buon rendere, grazie. Già, così è andata bene per tutti. Voi avete guadagnato un pranzo e noi abbiamo evitato una fregatura. No, guardi, chiami la signorina Lolita. Non si preoccupi, gliela saluto io, la signorina Lolita. Ma c'è un malinteso. Nessun malinteso. A lei, aria. Ecco Giuseppe, qua dove siamo? Qualcosa di simile alla situazione allucinata dalla nostra ospite poco fa. È perfettamente calzante, perché Gianrico Tedeschi è un tipo umano molto simile al marito della signora, l'amante venatorio di carabine, insomma, fringuelli. E qui Gianrico Tedeschi è un attore di varietà che vive parassitariamente su Sandra Milo, una delle prostitute che poi si sono dedite al ristorante. Simon Signore, però, che è molto più avveduta, lo sgama, lo scopre, lo coglie in questa sua volontà appunto di predare e quindi lo fa dileguare velocemente. È meravigliosa la meschinità con cui scroccano questo pranzo e se ne vanno via facendo un vento, cioè cercando di sottrarsi anche al conto, visto che non possono estorcere soldi da Milo, cercano almeno di non pagare. gare fanno anche questa scarpetta finale, cioè, e sono i piccoli dettagli quelli che esaltano Pietrangeli, che restituiscono l'affresco umano molto precisamente. No, è fantastico vedere come uno dei punti di favore a favore delle donne quando mettono nuove mutande è la non sudditanza economica. In realtà la donna che subisce, che sta in casa, che non fa nulla per non far vuotare la casa di quell'uomo, è una donna che ne è succube economicamente. Quando una donna ha la sua autonomia, una donna lavora, la donna può facilmente farlo, e ragion di più quando è l'uomo subordinato economicamente alla donna. Melog, la realtà condivisa. Dummi, tu li devi lasciare stare, lasciami. Non me li devi mettere l'uno contro l'altro. Lasciami, statti lontano da loro, perché ricordati, lasciami, va fiume, ricordati che se quello che ti ho detto lo vai a dire ai figli miei, io ti uccido. Ma non come lo dici tu, che me l'hai detto per 20 anni. Chiudi sta bocca, chiudila. Devono essere uguali tutti e tre, tutti e tre, tutti statta e fermo, tre. Filomè, statta fermo. Io t'accido, guarda. Statta zitta. Io t'accido. Statta zitta. Io t'accido. Statta zitta. Non so se Filumena Marturano può essere uno degli esempi. Certo, è una che ha incastrato facilmente un uomo, in questo sì, non è proprio un metterlo, l'ha messo con le spalle al muro, in quarto l'ha incastrato, l'ha costretta a sposarla. Beh sì, però è una donna che lui, da impenitente donnaiolo, Domenico Soriano, appunto il Mastro Gianni in questo caso, l'ha degradata da prostituta, l'ha tolta dalla strada, l'ha degradata a badante affidandola alla vecchia madre. Era la mantenuta, andava in quegli anni. Sì, faceva la badante della madre, però sì. insomma, nella PS. Quindi... Ma oggi accade con tante donne che vengono da paesi lontani, la stessa cosa, comincia la badante la mamma, poi ci se ne incapriccia, poi diventa la moglie, la badante la mamma, e così allo stesso tempo hai due, la badante di te stesso e di tua madre, e poi continuerà sempre così. Però il percorso contrario, perché parte da amante e diventa badante, però lei si fa sposare in extremis fingendosi morente. E quindi ottiene la possibilità di mantenere i tre figli di cui lui era sempre stato tenuto all'oscuro, e gli dice che almeno uno di loro è suo, è di Mastro Gianni, solo che non gli vuole dire quale, perché vuole che lui mantenga tutti e tre, quindi giustamente l'amore materno che trionfa, insomma, quindi c'è questo sentimento sano che si contrappone un po' alla viltà di Mastro Gianni in questo caso. Questo, qui il piano del gioco è un atto, insomma, di giustizia, in fondo lei fa un atto di profonda giustizia, è un uomo a cui lei non dice più nulla, non le dice più nulla naturalmente, non è più nulla, non è più l'amante, non c'è più una passione, sì è il padre di un suo probabile figlio, ma nemmeno questo, e lo incastra in maniera più formidabile, più vile, fingendosi malata, dice tanto muore, mi metto a posto la coscienza, poi appena sposata si alza, fame, mangia, è passato tutto. Franco, buongiorno. Buongiorno, io ho 62 anni, e, insomma, un po' di esperienza ce l'ho, penso che in mutande l'uomo ci nasce praticamente, cioè guardiamo sull'indumento e vediamo che quello realtà... dell'uomo è... Nudi nascemmo, nudi venimmo al mondo. No, però... no, ma in senso metaforico, voglio dire, fin da giovane, ecco, perché passa la vita a mostrarsi per quello che non è, cioè a nascondere questo indumento che rispetto a quello della donna è molto meno elegante. No, sì. Ecco, per cui secondo me una donna mette in mutande l'uomo nel senso che gli toglie tutta quella costruzione che si fa per apparire meglio di quello che perfetto, è. Perfetto, meglio, per apparire uomo in una società in cui... È molto sfumato il ruolo veramente. Oggi cosa significa essere uomini? Cosa bisogna fare? Mica andiamo alla guerra, mica andiamo a uccidere fiere e selvaggina per portarla e strapparla con i denti e dividerla fra i nostri figli. Facciamo delle vite da Umarell, siamo intercambiabili con le nostre donne, questo è il vero problema. E quindi è tutta una costruzione fantastica. E quindi alla fine direi che se un uomo si propone per quello che è, senza voler apparire più di quello che è, appunto, la donna non avrebbe bisogno, pian piano che lo conosce, di fargli notare: guarda che tu non sei questo, ma l'uomo, che tu non guardi, sei quell'altro. Lei ha 60 anni e ci arriverò anch'io fra non molto tempo. Quando l'uomo si propone per quello che è, quando l'uomo con mitezza sciorina le sue debolezze, smette di avere anche quel barlume di interesse che ancora potrebbe dargli qualche piccola soddisfazione nella vita, e la donna lo disprezza ancora più in partenza. È molto difficile, ardimentoso questo cammino. Giuseppe? Sì, ci vuole un po' di funzione attoriale, almeno nella prima fase. Cioè, il bluff ci vuole su. Mostrarsi. Anche un po' con l'inventiva, trascinare attraverso le parole, col racconto. Io mi sono fatto crescere la barba, vedi, per sembrare più uomo. Ti racconto un sacco di chiacchiere dalla vita. Insomma, sì, quindi... poi figurati, io sono un ammaestratore di cazzate da quando sono nato. Quelle mille lire che ci date ci deve andare per tutto, per la spesa, per le scarpe, per il tram. E poi come mai? Ho già finito i soldi, ci ho dato ieri 1000 lire e qui il denaro si sperpera. Già, perché al bar voi con gli amici il denaro invece lo sperperate. Non ricominciamo con gli amici, non ti permetto di ricominciare con gli amici. Sì, signore, che ricomincio, perché con gli amici siete sempre allegri, beati, fate gli spiritosi, venite a casa un muso così. E noi altri, allora che siamo tutto il giorno a casa sole, con chi dobbiamo parlare? Con la bambino? O ci dobbiamo tagliare la lingua? Magari! Magari! Cosa credete che quello che raccontate voi sia interessante? Ma lo volete capire una volta per sempre che a noi di battere di coppi non ce ne frega niente, ma niente! Non bestemmiare! Maledetta, cosa dici? Maledetta, il vostro protettore è Andrew, il nostro è Lucrezia Borgia, chi è? Sì, Lucrezia Borgia, l'hai detto! Lucrezia Borgia è il vostro simbolo, ma a te però non ti è mai riuscito a avvelenarmi! Che? Hai capito? In fondo a pranzo hai sempre fatto quello che piace a me. A me queste liti bercianti non mi danno però l'idea. La messa alle spalle è un atto gelido, è un atto sibilato tra i denti, un atto fatto più di occhiate, fatto di situazione irreversibile. La sceneggiata poi ha in sé già il germe della riappacificazione, non è mai drastica. È vero, infatti qui siamo in un contesto farsesco. Nei primissimi anni del dopoguerra, nel 52, la donna ha le fattezze da virago, gigante armadio a quattro ante di Aveninchi, che inchioda Totò, appunto, che è costretto, per non subire la sua logorrea imperante, a chiudersi in soffitta, a sofitizzarsi, come dice lui, ad adorare il santino di Landru, a cui dedica candele, insomma, famoso mostro barbuto che bruciava le donne nella stufetta. Sì, ma all'epoca poteva anche essere preso come un fatto ironico, appunto, cioè, si era nel mondo tempi di Totò. Non c'era zio Michele Parolisi, c'era oggi sarebbe di pesante cattivo gusto, cioè, per proporre questo. Beh, invece lì, in quel contesto farsesco, aveva un suo senso. E questa è la donna economa, la donna che prende i soldi del marito, che il marito porta a casa e quindi manda avanti la famiglia, che in realtà poi lo avvelena, tra virgolette, spacciandogli il cavallo per vitello, insomma. Sì, ma questo dimostra di quello che noi diciamo sempre, che ormai la famiglia è un modello sorpassato. È chiaro che l'uomo non ne può più di formichine che mantengono la famiglia, che sciabattano per casa, sono tanto brave, economiche, è chiaro che poi va a cercare altrove gratificazioni, vertigini. È chiaro che queste donne che hanno dato tutto loro stesse in questo ruolo subordinato, alla fine poi mettono con le spalle al muro. Roberto. Buongiorno a tutti, sono Roberto da Torino, volevo un po' raccontare la mia storia, perché penso sia la storia di tanti mariti separati come sono io. Dunque, io sono stato sposato per circa 9 anni, poi per vari motivi c'è stata una separazione, da qua sono arrivati, diciamo, i dolori e mi sento stato portato a essere in mutande. Lo so, ma con chi ve la dovete prendere? Cioè, io ho tutta la compassione e la partecipazione. Io sono continuamente queste associazioni di uomini separati. Non si può fare le vittime. È una gestione personale e individuale quello del rapporto di coppia. Se poi uno si ritrova dalla parte di chi deve subire, è un po' difficile, oltre ad avere un'umana compassione. Qualcosa è stato sbagliato dall'inizio, probabilmente, o in corso d'opera, non lo so. Sì. È perché tutte e due si sbaglia, ma il punto è questo, io mi dico questo, io parlo per la mia situazione. Allora, mi sono separato, il giudice ha sì, ma lasci perdere, scusi, allora, perché l'hai sentito mettere i mutande? 30 secondi, se no devo chiudere. Vabbè, mi sento di essere preso in mutande perché, niente, mia moglie, ex moglie, ha voluto il mantenimento, ne chiede sempre di più. E questa è la legge, a lavorare tranquillamente. Perfetto, questa è la legge, abbiamo già detto che c'è qualcosa che non funziona, cambierà, smettete di piangervi addosso, non vi sposate, che vi devo dire, è così che va. A domani, anzi a lunedì, è finita la settimana.